giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo. Il corpo, vero? Sì. A che ora? Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, rifugiatano sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è una mondizia, è un cadavere. 2 novembre 1975, Ostia, 30 km da Roma. È una stradina stretta, non asfaltata, composta da ghiaie e pietre. Costeggia una baraccopoli con tetti di latta, muri di cartone, sporcizia dappertutto. Lì vivono centinaia di persone al di sotto della soglia minima di povertà. Sarà il giorno in cui, dalla densa nebbiolina di mare, emergerà ai bordi dello sterrato il corpo, martoriato e senza vita, di Pierpaolo Pasolini, 53 anni, scrittore e poeta, regista ed intellettuale, una personalità unica ed irripetibile della cultura italiana. Da ragazzo ho creduto nella rivoluzione, come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingenti non si può credere. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Una vita divisa tra letteratura, poesia, cinema, teatro e impegno politico e civile. Pierpaolo Pasolini nasce il 5 marzo del 1922 a Bologna. Conclude gli studi liceali. A 17 anni si iscrive all'Università di Bologna, facoltà di lettere. Nel 1945 Pasolini si laurea con la tesi Antologia della lirica pascoliniana e si stabilisce in Friuli. Insegna in una scuola media. Comincia la sua militanza politica. Nel 1947 diventa segretario della sezione del PC di San Giovanni di Casarsa, ma non viene visto di buon occhio dagli intellettuali comunisti friulani. Nel 1949 viene segnalato ai carabinieri per corruzione di minorenne. Viene espulso dal partito e perde il posto di insegnante. Si trasferisce a Roma. Nel 1955 pubblica per Garzanti il romanzo Ragazzi di vita. Il successo è immediato, ma il ministro dell'interno Tambroni promuove contro di lui un'azione giudiziaria. Al processo sarà assolto. Nel 1957, insieme a Sergio Citti, collabora al film di Federico Fellini, Le notti di Caviria. Firma sceneggiature con Bolognini, Rosi, Vancini e Lizzani. Nel 1961 realizza il suo primo film, Accattone, che suscita polemiche alla 22esima mostra del cinema di Venezia. Nel 1962 dirige Mamma Roma. Nel 1963 l'episodio La ricotta viene sequestrato e Pasolini è imputato per reato di vilipendio alla religione dello Stato. Nel 64 dirige Il Vangelo secondo Matteo, nel 65 Uccellacci Uccellini, nel 67 Edipo Re, nel 68 Teorema, nel 69 Porcile, nel 70 Medea. Tra il 70 e il 74 il Decameron, i racconti di Canterbury e il fiore delle mille una notte. Il suo ultimo film, del 1975, è Salò o le 120 giornate di Sodoma. Nel 1972 firma il documentario 12 dicembre per Lotta Continua. Nel 1973 comincia la sua collaborazione al Corriere della Sera, con interventi critici sui problemi del paese. Per Garzanti pubblica la raccolta di interventi critici Scritti Corsari, e ripropone la poesia friulana sotto il titolo La nuova gioventù. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, distruggere, sparire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. Dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini viene accusato Giuseppe Pelosi per gli amici Pino La Rana, 17 anni, borgataro. L'accusa sostiene una tesi che reggerà fino alla sentenza definitiva della Corte di Cassazione. Pierpaolo Pasolini ucciso da uno di quei ragazzi di vita che aveva amato, di cui aveva scritto. Per l'accusa è un delitto tra omosessuali. Pasolini, colpito a morte da un giovane sbandato in cerca di denaro che lo scrittore aveva conosciuto nei dintorni della stazione Termini a Roma, con il quale alla fine si era appartato. Una lite finita in un dramma. Tutto chiaro? Giugno 1976. Il Tribunale dei Minori condanna Giuseppe Pelosi in prima istanza a 9 anni e 7 mesi di reclusione per omicidio volontario in concorso con ignoti. Il Tribunale stabilisce che quella notte Pelosi però non agì da solo. La sentenza sarà poi ribaltata nel processo d'appello nel dicembre 1976, successivamente in Cassazione nell'aprile del 1979. L'entità della condanna sarà di poco ridotta. Giuseppe Pelosi torna in semilibertà nel dicembre 1982. Anni dopo entra ed esce dal carcere a più riprese. La prima volta, 5 giorni dopo aver saldato il suo debito con la giustizia per una rapina ad un furgone postale. E ancora numerosi reati. La tesi ufficiale, confermata dai tribunali, però non convince molti. Pochi giorni dopo la morte di Pasolini, il settimanale europeo porta nuovi indizi. Cerca, cioè, di dimostrare che Pasolini è stato ucciso non solo dal minorenne Pelosi. Per il giornale, insieme a Pelosi, quella sera c'erano altre persone, borgatari, neofascisti. Odiavano Pasolini per la sua diversità e per la sua capacità di essere a volte controcorrente. Una banda di quartiere che lo aveva minacciato più volte. C'è chi si spinge fino ad ipotizzare un delitto su commissione, un delitto di Stato. Guido Calvi, avvocato di parte civile. Non fu Pelosi ad aggredirlo. Basta soltanto la considerazione che Pierpaolo fu trovato coperto interamente di sangue, fu colpito violentemente al basso ventre, alla testa, e perdette un'infinità di sangue, era coperto di sangue. Pelosi certamente non toccò Pierpaolo, non aggredì Pierpaolo, non ebbe colluttazioni con Pierpaolo. 7 maggio 2005, la svolta. La trasmissione Un Bel Di Giallo della RAI convince Giuseppe Pelosi a parlare e dice: non sono io l'assassino di Pasolini, ma 3 uomini sui 45 anni dal forte accento siciliano. Scesi da una 1500 Fiat targata Catania, lo assalirono gridandogli fetuso a Ruso e poi minacciando di uccidere i miei genitori se non avessi taciuto su ciò che avevo visto quella notte. Io sono innocente, non sono complice di nessuno. Io ho vissuto 30 anni nel terrore, sono stato minacciato io, mia madre, mio padre. Adesso sono morti, sono solo, non ho più paura, perché ormai ho fatto 22 anni di carcere, ho 46 anni, sono solo. Non ho più paura perché queste persone sicuramente o saranno morte o saranno anziane, che io non conosco, ripeto, io non le conosco. Pelosi dunque cambia versione, si dichiara innocente, sostiene che a togliere la vita in modo barbaro a una delle più importanti voci della cultura italiana del Novecento furono 3 picchiatori che non conosceva e che volevano dargli una lezione. L'ex ragazzo di vita vide tutto e poi spaventato fuggì. Pasolini, già gravemente ferito, fu travolto da un'auto e rimase ucciso. Il caso della morte di Pierpaolo Pasolini si riapre a distanza di 30 anni. Quanto tempo ci vorrà per ottenere piena giustizia su quell'assassinio?